No, sono innamorato di te. È solo questa strana sensazione che mi prende la sera. Quando all'imbrunire arrivano le ombre, quando la luna piano si distende e dipinge la mia solitudine di malinconici ricordi. Non sono innamorato di te, è solo la tua immagine che mi accompagna in queste notti silenziose, dimenticate nel tempo e nello spazio. Nella mia mente quel folle rincorrersi di giorni passati, di baci voluti, di carezze cercate, di sguardi rubati e parole mai dette. Non sono innamorato di te, ma so che appena apro gli occhi su un altro giorno inutile, in un'altra mattina di domande di caffè, riaccendi il mio respiro, cavalchi la mia anima, ti aggrappi a questo corpo come rosa di campo, come cucciolo smarrito. Non sono innamorato di te, ma quando il sonno viene alla fine mi addormento, sei l'ultimo pensiero, è l'inizio del mio sogno. Non sono innamorato di te.